quattro buchi nella pelle. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, carta di giornale. Senza scarpe. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, bianca non in ospedale. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, senza capelli. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, senza denti per mangiare. Montagna di rifiuti. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, nessun latte ti potrà salvare. Lì, lì, lì, lì, lì, studiavamo insieme. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, viaggiavamo insieme. Sei andata. Lì, lì, lì, lì, lì, i tuoi poeti maledetti. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, le tue collane. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, dovevano arrestare. Guarire. Lì, lì, lì, lì, lì, quattro arance la domenica mattina. Lì, lì, lì, lì, lì, dopo due anni. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, non mi riconoscete. Lì, lì, lì, lì, lì, eravamo due bambini. Lì, lì, lì, lì, lì, lì, io non ero il tuo dottore. Lì, lì, lì, lì, lì, non riuscivi a fare l'amore.